noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si parlo bene il Napoli che me la sento così, non è per fare grandi complimenti, mi piace quando non c'è la palla andare a aggredirle per prenderla di nuovo, perché penso che i giocatori sono fatti per tenere la palla, poi sono alti, fanno una bella costruzione del gioco, fanno tantissimi passaggi, la palla gira uno e due tocchi tutti, si inseriscono bene, non giocano solo a piedi, fanno inserimento bene, fanno tante cose quando lo vedi, wow, lo fanno bene, mi piace quello che fanno. L'unica cosa che chiedo ai miei giocatori domani sera è di non aver paura, di non avere il giusto timore degli avversari, perché il timore ti dà attenzione, ti dà applicazione, ti dà capacità di sofferenza perché ti aspetti di dover soffrire. La paura ti dà negatività, ti paralizza. Quindi dobbiamo avere il giusto timore perché vogliamo tanta applicazione difensiva. E poi mi piacerebbe vedere 11 facce di cazzo che hanno la convinzione di poter palleggiare sul viso al Manchester City. Mentre aspettiamo il sorteggione in sala mensa per capire qual è l'avversario dell'Italia, sorteggio che ora è in corso e vi teniamo aggiornati strada facendo, chi mi conosce bene da una vita, chi mi vuole bene come Marino Bartoletti, sa perfettamente che dopo questa frase Sarri finisce dritto dritto nella galleria dei miei idoli ogni epoca. Ciao Marino. Sì, buongiorno Carlo. Effettivamente abbiamo apprezzato due, come dire, capacità comunicazionali abbastanza diverse fra di loro. Bravo. Di Guardiola e di Sarri, ugualmente pregevoli, diciamo così. Non so se finisce fra i miei idoli esattamente per questa Irlanda del Nord e Svizzera, il primo accoppiamento, scusa se ti interrompo, sto andando in diretta. Nord Irlanda, Svizzera è il primo accoppiamento dei sorteggi. Abbiamo evitato la storia funesta, tanto per cominciare, almeno quello. Furono loro a sbatterci fuori dai mondiali del 58. Mi permetti di salutare, anzi fallo tu, Ottavio Bianchi, fallo tu Marino. Beh, lo faccio con l'affetto che sa, con la commozione che sa, e lo abbraccio e lui sa perché. Buon pomeriggio Ottavio. Grazie Marino. Croazia, e adesso vediamo con chi. Ottavio Bianchi, artefice del miurgo del primo Napoli dello Scudetto. Siamo d'accordo tutti sul fatto che questa sera è la partita in questo momento, a questa data di ottobre, più bella d'Europa, Ottavio? Non esageriamo, è una bella partita, due squadre in grande spolvero, il Napoli fantastico, il Manchester City dopo la delusione dell'anno scorso quest'anno ha cominciato bene, si vede la mano dei due allenatori, comunque oggi sono stato a colazione con un mio ex collaboratore che criticava veramente aspramente tutti i vari titoli sui giornali, e lui mi diceva: ma insomma, in fin dei conti, una società buona, dei giocatori importanti e un allenatore che sbaglia poco, questa è la ricetta, il resto sono chiacchiere. Devo dire che a proposito di pragmatismo, caro Bartoletti. Allora, vi do altri due accoppiamenti: Nord Irlanda, Svizzera, Croazia, Grecia, Danimarca, Repubblica d'Irlanda. E a questo punto conosciamo il nostro Cruciani si affaccia dalla porta e dice: Svezia, perché voglio godere nell'eliminare la Svezia. Voglio godere nell'eliminare la Svezia. Uno dei più grandi godimenti sarà quello di sbattere fuori la Svezia dai mondiali, dopo che ci hanno fregato quell'europeo maledetto con quella torta che hanno fatto con la Danimarca. Voglio eliminare la Svezia. Bartoletti, qua succede di tutto, compreso il cavolo di Cruciani. Non dovrebbe essere difficile eliminare il premiato biscottificio, penso. Il premiato biscottificio. Ciao Marino. Allora, Ottavio Bianchi, comportati bene. È chiaro che doveva andare male, no? Rispetto alle previsioni, cioè non ci potevamo illudere dopo quello che è successo di beccare la Grecia o l'Irlanda del Nord. Era già scritto, no? Nel nostro DNA che avremmo beccato una difficile. Comunque, più Ottavio difficile. Bianchi, Italia-Svezia, come la mettiamo? La mettiamo che se abbiamo paura della Svezia, come abbiamo sentito prima, timore sì, paura no. Se abbiamo paura della Svezia è giusto che stiamo a casa, insomma dai, adesso smettiamole di continuare a esaltare certi avversari che in definitiva non ci sono. Vogliamo essere una delle squadre guida più importanti del calcio mondiale, vi sta bene arrivare forse dietro la Spagna in quella maniera, però questo è un lavoro di fondo. Quando lei va a vedere che ci sono delle squadre di media classifica composta da 10 giocatori mediocri stranieri, è giusto che paghiamo le conseguenze. Però adesso mi sembra veramente un po' eccessivo avere paura della Svezia. A propositop repararla con molta attenzione, con molto rispettare l'avversario, però per paura diciamo allora siamo a casa. A proposito di parlare chiaro, professor Bartoletti, a proposito di parlare chiaro. Beh, ma non ha la brutta abitudine di fare dei giri di parole. infatti. No, siamo tutti d'accordo, sottoscriviamo quanto ha detto il professor Bianchi, giusto? Sì, sulla storia della nazionale italiana incombe la frase: cosa siamo venuti a fare ai mondiali d'Inghilterra se non buttiamo fuori la Corea del Nord? Altri tempi, per carità, anzi in quel periodo era in odore di nazionale anche Ottavio, per la verità. Però effettivamente se abbiamo paura della Svezia veramente non abbiamo capito nulla di quella che è la nostra storia, di quelle che sono le nostre prospettive. Scusami se ti interrompo, questo è vero, tu ti ricordi che dovevo andare anch'io in quella spedizione, però siamo partiti con il favore del pronostico in Sudafrica, siamo andati in Brasile e siamo stati eliminati senza mai vincere una partita da squadre veramente di una mediocrità incredibile. No, ma diciamo la stessa cosa, Ottavio. D'altra parte è un po' di mondiali dopo quello vinto che non è che ne azzecchiamo tanti, sinceramente. Mi verrebbe quasi da dire rotoliamo verso questo mondiale, partiamo con basso profilo e vediamo se, come sempre succede in questi casi, riusciamo a dare qualcosa di buono, anche se le mamme della generazione che in questo momento sta giocando al calcio non è che si siano espresse al meglio, abbiamo visto delle annate migliori, sinceramente. Poi finché Ventura, ma credo che poi ci riprenderà Carlo, ci riporta coi piedi per terra, non riesce a trovare la giusta combinazione fra vecchi senatori che sinceramente in parte dovrebbero avere l'umiltà di dire: ragazzi, forse è arrivato il momento che noi molliamo. Senti, aspiranti, mi fai dire una cosa su, io vorrei una cosa su Buffon da te. Allora, su Buffon ti dico questo, guarda, l'ho scritto in un mio post poco tempo fa ed è una storia che pochi conoscevano. Vigilia dei mondiali del 1978, Facchetti è, seppur anziano, il capitano e il simbolo della nazionale, già di Bearzot. Incombe un ragazzo che si chiama Scirea e che in quel momento è sicuramente il più forte libero italiano e probabilmente sta per diventare il più forte libero del mondo. Facchetti prende in disparte Bearzot, che aveva già incrociato sul campo quando lui era un giovane interista e l'altro un anziano torinista, e gli dice: Enzo, facciamo una cosa, guarda, è giusto che giochi Scirea, io se vuoi vengo in Argentina, faccio il 23esimo, allora se ne convocavano 22, cerco di non disturbare, metto a disposizione la mia esperienza, la mia lealtà, però che giochi Gaetano. Ecco, accade questo, non aggiungo altro. Ottavio Bianchi, mi dice invece la sua sul lavoro di Ventura? Ma Ventura sta lavorando per quello che ha in mano, forse ci sono state l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso nel mio ex mestiere è quello sopravvalutare il materiale umano che hai in mano. Questa è una cosa molto molto pericolosa. mi sembra che specialmente nella partita in Spagna abbiamo un po' perso l'identità. Io vorrei spendere ancora una parola: perché dobbiamo rifiutare l'etichetta di essere italiani? Abbiamo vinto tanto, abbiamo fatto tanto, con tutti ci hanno copiato e ci copiano ancora con la nostra identità. Il calcio è un fatto sociale, è un fatto di cultura. Ogni tanto saltano fuori le mode e bisogna seguire le mode, il tiki-tac, il toki-toki e tutte queste balle qua. Ma giochiamo come siamo capaci. Come nel nostro DNA. Certo. E abbiamo sempre fatto risultati, ci hanno sempre rispettato. A me piace andare in giro per il mondo a vedere il calcio, meno che in Italia, perché onestamente il calcio italiano è di quarta fascia. Quarta addirittura. Direi che prima c'è la Lega, poi c'è il Premier, poi c'è la Germania e veniamo noi. Prima dicevano, ma sai, la nostra è competitiva. Adesso ci sono due squadre che giocano per vincere, tre sono già o quattro retrocesse e c'è una forbice allargata. Dico solo una cosa: l'anno scorso l'Atalanta ha battuto tutti i record, il Napoli è arrivato terzo battendo tutti i record, la Roma è arrivata seconda battendo tutti i record, la Juventus ha vinto 6-6 con... C'è qualcosa che non quadra, ragazzi, facciamo lì. Mi sembra di un'evidenza. Quadra che ci sono, sai cosa c'è che non quadra? Che ci sono 20 squadre nel campionato. La verità è questa. Dovrebbero essere neanche 16-14. La qualità del vertice è assicurato. Abbiamo 4-5 squadre importanti, sicuramente importanti. Adesso vedremo anche se a livello europeo, purtroppo i fatti non ci danno ragione. E poi c'è uno sfilacciamento che porta praticamente ai confini della Serie B. Ci sono 4-5 squadre che farebbero fatica ad affermarsi in Serie B. Il problema è sempre quello. Lo sappiamo, il problema è sempre quello. Io rubo un altro istante a Ottavio Bianchi. Lo prego di attendere un attimo, abbiamo il traffico e poi vorrei ancora tornare a bomba sul Napoli, sulla partita di questa sera. Perché Ottavio Bianchi ha detto non esageriamo, non è la partita più bella d'Europa. Secondo me in questo momento sì, cosa può offrire in questo preciso momento il calcio europeo di più bello di un Manchester City-Napoli questa sera? Subito dopo l'intervallo la lotta continua! Tutti convocati! Tutti convocati! E qui torniamo con Marino Bartoletti e Ottavio Bianchi davanti ai quali mi inchino come sempre. Allora, Ottavio Bianchi, questa sera Sarri contro Guardiola, quella frase di Sarri che a me ha fatto impazzire, perché ci vuole personalità per dirla. Do due numeri. Allora, il City è primo in classifica in Premier, 22 punti, 7 vittorie e un pareggio, 29 gol fatti in 8 partite, 4 subiti. Napoli 8 su 8, come ben sappiamo, 26 gol fatti, 5 subiti. Beh, insomma, mi sembra tanta roba, mister Bianchi. E volevo dire quello di prima. Secondo me è una bellissima partita, però non è la più bella per questo, perché non è un dentro fuori, è un avvicinamento a una qualificazione alla portata di tutte e due. E questo sicuramente per i protagonisti è nella testa. Marino? No, dicevo, forse Ottavio potrebbe essere più bella ancora per questo. Io mi aspetto molto da questa partita. Se fosse un dentro fuori potrebbe essere una partita più contratta. Ma per voi così, a me interessa il risultato. Spesso e volentieri, e tu lo sai Marino, c'è gente che dice... Siamo andati in campi ma abbiamo tenuto bene il campo, 5-0 o 4-0 o 3-1 per gli avversari. Il calcio, secondo me, il pugile bravo è quello che va su, prende meno e butta a capo l'avversario, non è quello che prende tanti pugni e poi dopo va fuori. È una cosa, è un po' filosofica diversa. Per gente che si è rotto le gambe per vincere è diverso che partecipare e giocare bene. Il giocare bene ti porta comunque a fare il risultato, ma se lo fai, come dicono i numeri del Napoli, che quest'anno fa parecchi gol, però ne subisce anche meno. Gli anni passati era leggermente diverso. Vincerà lo scudetto questo Napoli? Domanda facile facile, poi saluto Ottavio Bianchi. Secondo me sì, l'ho detto parecchio tempo fa, suscitando un po' le ire dei protagonisti napoletani, perché dicono che non si poteva dire, ma è evidente che il Napoli quest'anno aveva qualcosa in più. Amen. Se lo dice il primo che ha vinto lo scudetto a Napoli. Appunto, lo dice il primo che ha detto che ha vinto lo scudetto a Napoli, e noi lasciamo queste parole a voi, cari ascoltatori, e alle agenzie più tardi. Grazie Ottavio Bianchi. Grazie a voi, ciao. Grazie, Marino. Mister. Ciao, Ottavio, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie mister. Beh, intanto ce la godiamo, Marino, e io comincio a pensarla con Ottavio Bianchi. Aggiungo una cosa, una considerazione prima di passare. Beh, ci sono gli ascoltatori, ma con te voglio parlare di un'altra cosa perché siamo due romanticoni. Aggiungo una cosa. È vero che quella, la partita di stasera sarà meravigliosa, patinata, c'è questa frase di Sarri, è una partita che non è dentro fuori, quindi il Napoli può anche permettersi di perderla, ma attenzione a come la potrebbe perdere, perché se prende quattro sberle allora diventa difficile. La partita con le maiuscole al loro posto è quella che si gioca sabato sera 20:45, Stadio San Paolo contro l'Inter. È vero che è ottobre, ma è già una partita decisiva emotivamente. Va a finire che ha ragione De Laurenti. Guarda, mi dispiace ammetterlo, ma è così. Poi lui non doveva dirle quelle cose, però no. È così. Sì, se si telefonassero De Laurenti e Sarri, sicuramente noi avremmo meno titoli, godremmo di meno, ci divertiremmo di meno, però credo che farebbero di più l'interesse del Napoli, per la verità. E De Laurenti che dovrebbe telefonare a Sarri, il quale comunque ieri sera poi ha risposto, perché ha detto che al massimo cambierà due cose, poi ci pensa lui. Io mi aspetto molto, sai che in questo momento sono a Napoli, quindi puoi immaginare che euforia sana, non malsana, si percepisce attorno a questa partita. Troppa? No, assolutamente no, guarda, assolutamente no. Potrebbe diventare piuttosto importante il ritorno di questa partita, anzi io temo che, essendo nell'albergo dove vengono di solito le squadre, sarà meglio che prenoti fin da adesso, perché non vorrei trovarmi a Ghero vicino di camera. Ma a parte questo, io credo che se vanno come devono andare le cose, il ritorno, seppur non decisivo, forse sì, fra Napoli e Manchester sarebbe assolutamente assimilabile, anche se non è un dentro fuori, a Napoli-Real Madrid. E comunque hai ragione tu, adesso senza fare gerarchie su qual è stata la partita più importante di questi otto giorni, poi se vuoi parliamo del calendario, della Lega, del cervellone, in cui il Napoli ha giocato a Roma contro la Roma, a Manchester contro il Manchester City e poi si ritrova l'Inter sabato prossimo, diciamo che, parlando come quelli che sanno parlare, un algoritmo piuttosto importante nel quale al Napoli è sempre stato proposto di alzare leggermente l'asticella, vediamo come esce da questi otto giorni, di cui questa partita, quella di stasera, era è una parte sicuramente piuttosto importante. Allora, ho Marco da Como e Simone da Milano, però insomma sono le 14:24, io voglio sentire sta roba, fammi sentire una cosa, fai sentire a noi, a me, a professor Bartoletti, questa cosa, Gianmarco Ferronato. Presa larga, Bartoletti. Dimmi dove vuoi arrivare. Allora, oltre che farmi piangere, dimmi dove vuoi arrivare. 1984, chi di noi non è diventato matto, io ero un ragazzino, vedendo una Kelly Brock, per la quale non esistono aggettivi, dire a Gene Wilder: serviti il pasto cowboy. La signora in rosso, che oggi non è più Kelly LeBrock, ma è la Ducati con un bambino, e chi guarda il nostro Twitter sa di cosa sto parlando, un bambino che conosci bene e che si chiama Dovizioso, e sul Romagna quale tu hai Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, ed ho proseguire? Sei carico come una mina. Io pretendo che sotto il podio, io ti faccio le mie scuse, quando vince Dovizioso, dopo che si è suonato l'inno nazionale, si suoni Romagna mia. Porca miseria. Cosa osta? Porca miseria. Porca miseria. Allora, la gara più bella dell'anno. Sì, io lo so. E te l'ho anche anticipato. Però la gara più bella dell'anno in Giappone. L'unica cosa che mi devi dire, visto che lo conosci da quando era ragazzino, è perché continua a fare Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mr. Hyde o Dr. Jekyll, scegli tu, è un pilota pazzesco che merita il mondiale. Quell'altro invece è chi rischia di perderlo. Perché in certe gare non ha quel fuoco lì. Perché? Senti, se fosse Mr. Hyde anche quando sempre il Dr. Jekyll o viceversa, cioè siamo sicuri che quando ha fatto le corse che a noi sono sembrate deludenti, in realtà non abbia fatto quello che l'intelligenza e la maturità in questo momento gli stanno suggerendo? No, siamo perché il mondiale lo perde, Marino. 12, 14, 10 punti che ha conquistato in qualche modo non siano quelli che gli consentono, al di là dei giorni in cui diventa matto, come nei due Gran Premi in cui ha vinto la gara all'ultima curva dimostrando di non avere nulla di meno di Marquez, siamo sicuri che anche quelli nella famosa cascina non siano fieno determinante, siamo sicuri che da adesso negli ultimi Gran Premi, che per la verità in teoria almeno due non lo favoriscono, venga fuori veramente il mio pazzerello Mr. Hyde. Ecco, io credo che Andrea Dovizioso, anche se la maturazione degli uomini è imperscrutabile, sia diventato in questo momento il corridore perfetto che io ho sempre sognato che diventasse. Il futuro non lo conosciamo, però non vorrei invece che il mondiale finisse allo Spagnolito proprio per quei punti che non ha avuto forse la garra per andarsi a prendere. E quella garra ce l'ha dentro. Quelli, Carlo, se non avessi avuto neanche se quello. Se non aveva le ruote, non so, Marino, lo scopriamo vivendo, maestro, io ti ringrazio. Io mi tengo le due vittorie che ha fatto. Me le tengo anch'io, nel a cuore. A questo punto cioè, in faccia Giappone quello che vuole, vinca il mondiale, perde il mondiale. Però mi ha dato una gioia sulla quale potrei diventare anche volgare come Sarri. Addirittura, vai, ma tanto nella galleria dei metri ci sei già, quindi adesso sei anche in compagnia di Sarri. Io sogno, l'ultima persona che si è affacciato al balcone del municipio di Forlì è stato Mussolini. Io spero che ci siano buoni motivi per cui fra un mese ci si affaccia Dovizioso. Allora, io giuro, a costo di farmi licenziare quel giorno lì, sono lì con una troupe di Radio 24 e tutti i convocati lo faccio da lì. Se succede, sarà così, lo dichiaro pubblicamente e chi vuole intendere, intenda. Allora c'era una piazza nera, stavolta voglio una piazza rossa. Ciao Marino, ti voglio bene. Ciao caro. Ciao. Marco, dica. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Una cosa sull'Italia e una cosa sul Milan. Allora, ripetiamo il sorteggio, aspetti un attimo. Nord Irlanda, Svizzera, Croazia, Grecia, Danimarca, Repubblica di Irlanda, Italia, Svezia, questi sorteggi che portano, che sono la strada verso il mondiale, dica. Sì, allora l'Italia secondo me è piena di fenomeni, ma sono ancora troppo giovani. E forse dobbiamo ancora far passare 4 anni prima che questi esplodano. Belotti, Conte, altra gente. Secondo me è troppo giovane per ambire a un ottimo mondiale, spero ci vada. Per quanto riguarda il Milan, invece, da inizio campionato non sopporto il ruolo di Bonucci come capitano, perché domenica sera ce lo meritava Bonaventura. Quando gioca Bate, se lo merita Bate. Se dovesse giocare Montolivo, se lo merita Montolivo. Bonucci è appena arrivato, 4 mesi fa, era la Juve, e a me questo ruolo di capitano assegnato così, senza un senso, a me da milanista è sempre Marco, stato... Un senso ce l'ha, secondo me. Allora, Bonucci è stato preso per fare il leader, è uno che conosce la via per il successo, che ha giocato in una grande squadra, che si sente di indossare quella fascia. Ora, da un certo punto di vista, che è quello delle normali gerarchie, l'anzianità porta alla fascia, lei ha ragione da vendere. Se invece dobbiamo dire in una squadra nuova, forse eccessivamente nuova, qual è il Milan, allora stabiliamo nuove gerarchie sulla base di concetti diversi, di criteri diversi, allora non trovo sbagliato che quella fascia finisca sul braccio di Bonucci. È chiaro che sono due idee diverse, due filosofie differenti, poi ognuno apprezza meglio quella che vuole. Simone da Milano, mi aspetti un attimo, la borsa stia lì. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. E poi mi piacerebbe vedere 11 facce di cazzo che hanno la convinzione di poter palleggiare sul Visa del Manchester City. A grande richiesta ripropongo questa frase cult di ieri di Sarri, a grande richiesta, ripeto, non per mia sponte, mia volontà. Invece saluto e ringrazio Massimo Giletti, buongiorno Massimo. Buongiorno, eccoci, ciao. Hai sentito Sarri? Il tuo avversario del momento, il tuo peggior nemico attualmente da juventino, no? Ma no, io ho sempre stimato, io andai 4 anni fa e disse il futuro allenatore del Napoli sarà Sarri, mi guardavano tutti straniti in quella TV e invece poi è diventato Sarri. Stacchi mi disse il più bravo allenatore, quello che fa giocare meglio, secondo me è una meraviglia come gioca, e ti ho detto poi alla fine bisogna sempre vincere, basta giocare bene. Basta giocare bene. Allora, invece, in questo momento, in questo preciso momento, voi della Juventus vi beccate un altro premio che è questo. Sono Gigi. Eccoci qua. Ci dica cosa succede a lei in porta quando vede che un suo compagno sbaglia un rigore così. Dico, il mio compagno ha avuto il coraggio di tirare un rigore così importante e dico, e prendo l'aspetto positivo. Ma che filosofo, ragazzi, io se rinasco voglio essere il suo Buffon. Questo anch'io, se rinasco voglio essere me stesso. La Juve mormorò, de chi se passa no, così deve venire la difesa. Adesso passa un po' troppo, dico. Higuain, ma la butti dentro lei, quest'occhio della tigre, me lo tiri fuori e la cacci dentro sta biglia, no? Boh. Come boh? Speriamo di sì. Noi aspettiamo qua, perché sennò il signor Greggio soffre, lui è l'interesse. Così la gente cambia velocemente l'opinione un'altra volta. Ecco Massimo Giletti, tappiro d'oro, ci sta la Juventus? I tappiri sono fatti eccezionali, quando vengono dati testimoniano che 364 giorni all'anno non lo prendi, lo prendi una volta ogni tanto, 6 anni di vittorie, 6 anni di trionfi, ci sta che tu prenda un tappiro, anche perché francamente dovevamo portarlo solo esclusivamente di Dybala, perché... ma assumersi la responsabilità di tirarlo è sempre un atto di coraggio per me. Sì, poi il calcio è quello che è, la poesia del calcio è anche quello, non credo che un giocatore si... debba essere valutato solo per quell'errore che purtroppo. Ma tu sei preoccupato, Massimo, per... sei preoccupato per la Juventus? No, perché io ho visto la partita dell'Atalanta, sinceramente ho visto 2 tiri in porta dell'Atalanta, è una gestione totale quasi della Juve per sempre. E sulla Lazio la partita anomala, arrivano molti giocatori da fuori dalle partite. Quello che è più complicato è che non ha mai una formazione, cioè se tu chiedessi oggi alla Juventus qual è la formazione della Juventus, varia tanto, ecco, in quel variare tanto che invece era stata una forza all'opposto, cioè aveva una formazione soprattutto a livello difensivo sempre lo stesso, sempre identica, dove qualcuno entrava ogni tanto, lì è il punto, anche dovuto credo al centrocampo e ai tanti infortuni che abbiamo avuto. Sì, sì. Bisogna capire che questo è un anno di... Tu hai visto anche a Barcellona, si sono dette tantissime cose, però a Barcellona Juventus aveva tirato di 16-17 volte, molto di più di quanto vinse col famoso 3-0 in casa. Di calcio anche questo, ci sta, è un momento non semplice da gestire, però non vedo questo allarme rosso, vedo però che bisogna trovare la quadratura con una formazione più, più netta. Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao, ciao. Eccolo, sei d'accordo con l'analisi di Massimo Giletti, che mi sembra assolvere comunque la Juventus? Certamente secondo me è da assolvere Allegri, che ripeto, una parte del popolo juventino va di traverso fin dalle origini, però Giletti che rappresenta quest'anima, per cui dice aspettiamo un attimo. Ha ragione, Massimo, nel senso che Tapiro ovviamente racconta l'eccezionalità di un fatto, la Juve che perde in casa è un fatto eccezionale, questo è indiscutibile, quindi questo è il punto di partenza. Poi Tapiro ha anche un potere, diciamo, taumaturgico, nel senso che comunque è un oggetto che porta bene Juve si sono prestati con grande tranquillità, quindi questo per quanto riguarda il Tapino, tra l'altro 7 milioni, complimenti a Striscia. Chiusa la parentesi, la vera notizia secondo me, come diceva ieri sera Gianfranco Zola, Tiki-Taka, sono le altre, in particolar modo il Napoli. Cioè, se noi andiamo a guardare i numeri della Juve, sono numeri, l'unico numero un po' inquietante rispetto al passato è quello dei gol subiti, ma per il resto non sono numeri in linee così così lontani dalle stagioni in cui la Juve ha dominato il campionato, e sono invece molto lontani in positivo rispetto all'anno, no, del famoso Sassuolo Juve, due anni fa. Quindi non sono numeri catastrofici. La sostanza, la verità e l'aspetto interessante di quest'anno è che c'è una squadra, soprattutto una, e poi c'è questo punto interrogativo dell'Inter, però molto interessante, che sembra credibile, quindi è cresciuta la concorrenza. Questo mi sembra il tema fondamentale. Poi, sì, questo è evidente. Questo è evidente. Che qualche scelta l'ha sbagliata, è ovvio, insomma, l'altro giorno, no, quando pensi che Dybala e Icardi hanno preso lo stesso aereo. No, ma è chiaro, non si è capita questa panchina di Dybala. A proposito, un'ultima cosa, Massimo Giletti, c'è anche una parte del pueblo bianconero che comincia ad avere delle perplessità su questo ragazzo. Ora io dico, se hai delle perplessità su Dybala, trovamene uno meglio. A quell'età, nel contesto mondiale, cioè Dybala e poi altri 10, per come la vedo io. Massimo. Sì, però non so se avete... Allora, intanto noi siamo gente che ama il calcio, lo segue dall'esterno, poi chi come voi lo segue da più vicino... Quindi ha tutta un'idea, noi siamo 50 milioni di allenatori in Italia, più o meno ogni volta col senno di poi, tutto semplice. Gli allenatori vedono i giocatori, li vedono nella quotidianità, li gestiscono nella quotidianità. Ciò detto, mi ha lasciato, ho sentito una frase di Allegri dopo la partita, la domanda perché non hai fatto giocare Dybala, sembra abbia risposto, l'ho trovato un po' stranito dal ritorno, un po', non mi ricordo il termine esatto. E loro vedono i giocatori, poi stiamo parlando, mettendo sotto processo Juventus, che se avesse segnato i due rigori, avesse preso magari due traverse in meno, un paio di traverse in meno, a quest'ora sarebbe insieme al certo, Napoli, ecco, certo. Cioè, è nei fatti. Che adesso la voglia di processare chi sta sempre in cima è evidente. Bisogna prendere atto che il Napoli non perde più punti con le più piccole, ma se domenica la Roma magari prendeva quel palo, se il palo andava dentro, magari eravamo a parlare di un'altra, stava a tre punti, ci stanno le cose. Chiaro, calcio è fatto così, Massimo. Ed è bello per questo. È bello discutere, però poniamoci sempre, stiamo coi piedi per terra. La Juve ha preso, mi sembra, due gol in più dello scorso anno, fino adesso, cambiando e perdendo un fuoriclasse come Bonucci, che mi sembra al Milan faccia molto più fatica. Grazie, Massimo. Un abbraccio. Ti abbraccio. Ciao Massimo Giletti. Pier, stai lì. Traffico, torniamo con Simone. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno Simone, mi scuso per il ritardo, è rimasto lì a ascoltare. Buongiorno. Tutti i convocati al telefono. Dica. Buongiorno, grazie anzi della convocazione. Niente, la mia era un'osservazione su le esternazioni di Sarri, che uso sempre termini, diciamo, un po' così terra terra per descrivere delle situazioni. Non è la prima volta che lo fa e lo trovo un po' così disarmante da una persona di un alto livello professionale come il suo. Mi sembra più un linguaggio da 14 anni che non da professionista di alto livello, quindi questo suo modo diminuisce un po'. Mi perdoni, posso domandarle a quale fede aderisce? Io sono juventino, però questo non toglie che Sarri sia, per quello che vedo io, forse il miglior allenatore almeno italiano. Mi piace molto come gioca il Napoli, però mi dispiace molto che faccia queste esternazioni così un po', diciamo. No, ma perché squadra tiene, banalmente? Della Juve, sono juventino. Però ecco, questo non vuol dire che tenere per una squadra non si possa ammirare, cioè, il lavoro. Che questo sia, esatto, sia un discorso più, diciamo, di una valutazione tra diversi stile. E anzi, mi fa piacere sentire che un ascoltatore che apprezza molto il lavoro di Sarri. È impossibile non apprezzarlo in questo momento. Sta facendo giocare il Napoli in una maniera incredibile. Ovviamente, insomma, la frase così, è forte, è colorita, per cui ci possiamo dividere fra quelli che la considerano una forma di colore, di onestà, se vuoi, e chi invece pensa che un allenatore di un grande livello, di una grande squadra come la grande squadra del Napoli, debba avere un linguaggio lievemente diverso. Però insomma, è un dibattito, secondo me, a che disgrazia le questioni di stile, cantava Ivano Fossati, cioè voglio dire, è quello lì, lo stile poi di una persona, secondo me, riguarda atteggiamenti più tanti, meno formali e più sostanziali. Sicuramente insomma, ieri ha fatto abbastanza notizia, poi la traducibilità in inglese di quell'espressione non è facile, secondo me è stata una battuta, cioè l'avesse detta, che ne so, Mourinho, uno dei soliti noti, l'avremmo presa in altra maniera, l'ha detta Sarri e suscita qualche alzata di sopracciglio come quella che abbiamo ora radiofonicamente sentito e che rispettiamo peraltro. Adriano, Luca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Volevo dire qualcosa proprio, io sono Juventino, ho 60 anni, quindi qualche annetto, sono juventino da sempre, e amo la Juventus, però devo dire una cosa, che questo Higuain, io non lo vedo tutto questo grande Higuain, questo grande, sta dando addosso a Dybala, che secondo me è un ottimo giocatore, anche se ha sbagliato due rigori, pazienza, lo succede. Uh-huh. Però Higuain veramente, 90 milioni per Higuain, io non ce li vedo nel gioco. A Higuain ci vorrebbe una squadra che giochi per Higuain, ma col gioco d'Allegri non va bene Higuain. Mi dispiace, e questo è il problema. Guardi, poi, io un grande centravanti non... Vi lascio in pace e non vi chiamo più. Non capisco perché Ventura continui a insistere con quel metodo lì. Non lo capisco. In parte non lo capisco nemmeno io, però oggi è il giorno in cui abbiamo l'accoppiamento. Prima abbiamo sentito, anzi tra poco chiedo un'opinione a Pardo, Irlanda e Nord Svizzera, Croazia, Grecia, Danimarca, Repubblica di Irlanda e Svezia, Italia. Con la cronaca del sorteggio abbiamo aperto, Cruciani si è infilato nello studio, Pierluigi ha detto voglio battere la Svezia per vendicare il biscottone, eccola lì. Ottavio Bianchi ha aggiunto vabbè, se abbiamo paura anche della Svezia meglio che stiamo a casa dal mondiale. Al di là dei moduli, il nostro avversario è questo, non è che ci si può lamentare a sto punto, no Pierluigi? Ma no, ma non ci si deve lamentare, nel senso che poi il livello delle quattro rivali era simile, quindi poi si può pensare che la Grecia sia lievemente più debole della Svezia. La Svezia ha fatto un buon girone, per carità, però insomma se devi andare al mondiale te lo devi meritare, così come sono assolutamente diciamo innocentista almeno dal punto di vista del punteggio della situazione in classifica, cioè, se noi abbiamo chiuso al secondo posto non è una tragedia perché avevamo la Spagna nel girone, quindi è un risultato che ci sta ed è il risultato che tutti noi avremmo pronosticato all'inizio del girone, e così come sono appunto quindi innocentista e non catastrofista su quello che è successo nel girone, dico pure che con la Svezia devi passare il turno senza se e senza ma, e non, insomma gli alibi non ci possono essere. Poi sì, forse la Grecia era meglio, forse, non so neanche dirti se è così poi in realtà, perché per esempio dal punto di vista ambientale forse la Grecia qualche difficoltà in più te la poteva dare, l'Irlanda del Nord, l'Irlanda, insomma sono quattro squadre che si equivalgono, siamo noi che dobbiamo fare un passo in avanti, dobbiamo stare tutti uniti, su questo non c'è dubbio, che non significa ovviamente avere il prosciutto sugli occhi, buono il prosciutto tra l'altro, però voglio dire è ovvio che lo spirito di critica ci può essere, però queste due partite vanno affrontate secondo me dal sistema calcistico italiano con grande unità, con grande senso di responsabilità anche da parte nostra. Certo, sul modulo sono d'accordo, ragazzi, soprattutto sulla madre di tutte le partite sbagliate, perché poi di quello stiamo parlando, perché poi alla fine è Spagna-Italia la partita che ci ha depresso, è la partita che ci ha dato la certezza del secondo posto ed è la partita che ha lasciato, come gli stessi giocatori nazionali hanno in qualche modo confermato, scorie nelle gare successive. Per cui insomma le chiacchiere stanno a zero. Bisognerà prepararla bene, bisogna avere fiducia e poi giudicheremo. Poi è chiaro che se passi come credo, come spero, e tocco ferro, se passi il turno poi comincia una un viaggio diverso, chiaro. Comincia una programmazione, no, vabbè, è chiaro, diversa, il mondo finisce lì e può cominciarne un altro, però è chiaro che quella è l'ultima frontiera. Pier, ti saluto, siamo in chiusura, ciao, ci ragazzi, sentiamo domani, ciao, ciao, ciao Pierluigi, faccio solo in tempo a salutare Paolo da Salerno, abbiamo ancora 50 secondi, dica. Sì, allora io volevo parlare del derby di domenica sera. Sì. Ma il derby Avellino-Salernitana, ragazzi, al 72esimo, Avellino 2, Salernitana 0, poi 2-1, 2-2, 2-3, Joseph Milala al 96esimo, ragazzi, siamo al top, siamo al top! Ciao Paolo, grazie. Grazie Paolo, questo cameo con cui vi lascio, Avellino Salernitana e siamo al top di Paolo da Salerno. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Naturalmente ci sentiamo domani ore 14, tutti convocati ragazzi. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!